balla l'erba del vicino, sciolto ormai il ghiacciaio al sole, suda il povero pinguino, mentre i poli spuntan viole. O verdeva il sentimento, ora è un gran calor globale, e anche il nostro amor si è spento, causa luce artificiale. Mi illumino di meno, e già ritorna il sereno, metto ai consumi un bel freno, e oscuro un po' l'abat-jour. Mi illumino di meno, condividiam l'elettrone, ed in penombra spero sì riaccenda la passione. Scaldami con il tuo abbraccio, non con il termosifone, liberato da ogni cruccio, ardo di coibentazione. Orso non sprechi all'amore, chi vuole essere spento sia, palpiti d'interruttore, e nel buio la magia. Mi illumino di meno, e appare l'arcobaleno, spengo anche il faro all'oxeno, brillano stelle nel blu. Mi illumino di meno, illuminata follia, se non sarà l'amore sarà risparmio di energia, se non sarà l'amore sarà risparmio di energia.